Incontri di Gianfranco Fabi. Questo ritmo incalzante, George Gershwin, l'avete riconosciuto, la Rhapsody in Blue. Buonasera, quanti sono con noi questa sera, e buonasera Carlo Mocchi Sismondi. Buonasera a voi. Carlo Mocchi Sismondi, presidente del Forum della Pubblica Amministrazione. Che cosa vuol dire essere presidente del Forum della Pubblica Amministrazione? Vuol dire che da più di 25 anni mi occupo di guardare come cambia l'amministrazione pubblica in tutte le sue varie fasi di riforme, di leggi, di cambiamenti di comportamenti. E nonostante tutto perdo a volte la pazienza, ma mai la speranza. Ma come mai è venuto in mente di complicarsi la vita in questo modo? Ma nasce probabilmente da pensare che un'amministrazione sana vuol dire garantire i diritti a chi ne ha bisogno, e soprattutto ai più deboli, e quindi è il senso di una democrazia sana. Dato che mi sono sempre occupato di sociale e di politica, 25 anni fa ho detto: ma andiamo a guardare come sta cambiando l'amministrazione. Senza peraltro essere nella pubblica amministrazione. Senza mai aver preso uno stipendio pubblico in vita mia. Quindi è una passione neutrale, una passione privata, un interesse privato, sì, magari che poi qualche risvolto economico, lavoro, certo, perché comunque certo, bisogna pur vivere, e quindi è diventato un lavoro. Ecco, ma rispetto a 20 anni fa, quando ho cominciato a guardare la pubblica amministrazione, è riuscito a cambiare qualcosa? Ma sono cambiate tante cose. Diciamo che sono cambiate più le norme che non i comportamenti, sostanzialmente. Sono cambiati i contesti, usiamo la digitalizzazione. Sono cambiati il senso di responsabilità. Il dirigente prima si rivolgeva soprattutto all'interno del suo ufficio, adesso cerca di capire che succede fuori. A volte con maggior successo, a volte con minore. Ecco, certamente guardando un po' il passato, ognuno di noi si rende conto che qualcosa è cambiato. Abbiamo forse meno bisogno di andare in comune a fare un certificato rispetto al passato, certe pratiche sono più veloci, però resta il fatto che la burocrazia è vista come qualcosa che è un ostacolo alla vita corrente delle persone e soprattutto direi alla vita delle imprese. Ma soprattutto non sopportiamo che l'amministrazione ci chieda 100 volte le stesse cose, cioè non sopportiamo le cose stupide. Non è che digitalizzando le cose stupide diventano intelligenti, sono veloci ma stupide lo stesso, e questo non lo sopportiamo più. C'era il segretario di un comune dell'Alta Italia che, ricevendo un suo omologo svedese, gli spiegava che riusciva a produrre un certificato di residenza invece che in mezz'ora, in 2 minuti, e il suo omologo svedese gli diceva: ma cos'è un certificato di residenza? Perfetto, ha fatto un aneddoto bellissimo, perché proprio digitalizzare i vecchi processi, digitalizzare l'analogico, non vuol dire appunto creare processi nuovi, dobbiamo ripensare i processi, e la certificazione sicuramente certifica solo l'incapacità dell'amministrazione di farsi scambiare i dati tra un'amministrazione e l'altra. Ecco, in questo senso abbiamo parlato appunto del Forum della Pubblica Amministrazione. Che cos'è concretamente? Ma è un momento di incontro degli innovatori. Intanto è Forum PA della Pubblica Amministrazione, o Forum PA, è una manifestazione che dura tutto un anno, che ha tantissimi appuntamenti degli innovatori nella pubblica amministrazione, che poi alla punta dell'iceberg è questa manifestazione di maggio a Roma, dal 26 al 28 maggio quest'anno, manca poco, dove gli innovatori dell'amministrazione pubblica si vedono, si incontrano, si riconoscono, cercano di fare progetti insieme e interloquiscono con le altre due parti, cioè da una parte la politica, dall'altra i cittadini. Tre parti, perché ci sono anche le aziende private, quindi diciamo gli innovatori pubblici dell'amministrazione, i cittadini, la politica, e in mezzo questo bene pubblico che a volte facciamo fatica a trovare. Ecco, un bene pubblico, un bene comune, una possibilità di avere una logica win-win in cui ci si guadagna tutti, però appunto la pubblica amministrazione sembra spesso più sulla difensiva, più sul fronte cercare le garanzie nelle procedure, quindi le procedure come appunto elemento di conferma delle cose fatte bene. Ancora una mentalità, sì, diffusa. Assolutamente. Bisogna dire che nell'amministrazione pubblica le norme non potranno mai essere eliminate del tutto, perché stiamo lavorando con i soldi dei cittadini, e quindi i cittadini hanno diritto che i propri soldi siano utilizzati attraverso le norme chiare. Nello stesso tempo le norme possono diventare anche un bellissimo castello dentro cui rifugiarsi per non vedere il mondo. il tentativo dell'innovazione è proprio questo: uscire dal concetto del castello e entrare in un concetto di rete. Il paradigma nuovo è un'amministrazione a rete, che vuol dire essere capaci di scendere dal palazzo e confrontarsi con tutte le parti, dalla cittadinanza, dall'associazione dei ciclisti, alla cittadinanza attiva, alle imprese che devono crescere, alle le altre amministrazioni che forse non sono sempre tutte d'accordo con noi. Ecco, ma in questa prospettiva si sono lanciati molti slogan negli ultimi anni, ne ricordo uno: lo sportello unico per le imprese. Poi ci si è accorti che dietro lo sportello unico ce n'erano altri 20, c'era uno sportello in più invece che essercene uno in meno. Quindi diciamo che la storia è fatta anche di tentativi, come minimo, per non dire di illusioni. Sa cos'è? Il rischio grosso in tutte le riforme della pubblica amministrazione, peraltro è un rischio che è presente anche l'attuale riforma, che adesso chiamiamo col cognome di questo giovane ministro e quindi come riforma Madia, il rischio è avere l'illusione del legislatore che fatta la legge sia fatta la riforma. La legge non può fare le riforme, la legge può dare le condizioni abilitanti, ma le riforme si fanno nel tempo con una permanenza dello sforzo che deve rimanere coerente per un periodo lungo. Ma noi cambiamo governi continuamente, basti dire che io in 25 anni di Forum PA ho cambiato 17 governi, ma lei si rende conto, 17 governi vuol dire che sono stati meno di un anno e mezzo al governo di media. È difficile che ci sia una permanenza dello sforzo, e senza una permanenza dello sforzo non c'è riforma. Beh, qualcuno potrebbe dire che in un anno e mezzo un nuovo ministro non riesce a fare troppi danni, ma certamente non riesce neanche a portare avanti degli impulsi riformatori. Lei immagini, per cambiare i comportamenti non è che si può fare per legge, bisogna poi assisterli questi comportamenti, aiutare, guidare le persone, creare delle strutture di supporto. Se no si fa alla fine, che ne so, la grande riforma per cambiare la governance locale, cambiare il ruolo delle province, poi si fa senza soldi e questi non sanno più che devono, da che parte si devono voltare. Cioè l'ipotesi gattopardesca del cambiare tutto per non cambiare nulla. C'è una così bella fetta di amministrazione che ha sempre sperato che funzionasse così: noi aspettiamo tanto, i dirigenti restano, i ministri passano, questo gli passerà, arriverà un altro e noi rimarremo sempre qui. C'è una fetta. E poi c'è la solita logica della proroga: se non c'è la proroga c'è la deroga, se non c'è la deroga c'è un rinvio, se non c'è il rinvio c'è l'eccezione. Sì, senz'altro. Diciamo che in questo senso la parte migliore dell'amministrazione comincia a essere un po' più sveglia, un po' più avvertita di questo, e quindi in qualche modo è meno facile dargliela bere. Insomma, la parte migliore dell'amministrazione sta cominciando a ribellarsi a questo. Bisogna che portare tutta l'amministrazione dalla parte dei migliori invece della parte dei peggiori. Qual è il problema più grosso? Le maggiori vischiosità stanno nei grandi ministeri, nei piccoli comuni, nelle amministrazioni locali, negli enti del parastato, negli enti pubblici? Ma diciamo che la vischiosità maggiore è dove non c'è il fiato sul collo del cittadino, cioè dove il sindaco del comune di 50.000 anime, non dico quello di 5.000 che è troppo facile, più o meno conosce il suo comune, quindi più o meno difficilmente può, come si dice a Roma, buttarla in caciara, difficile imbrogliare le carte. E dove ci sono grandissimi enti è più facile che si nasconda dietro uffici che nascono e che poi non alla fine hanno come unico obiettivo la loro sopravvivenza. Quindi questo è non legare l'organizzazione alle funzioni, questo può succedere nelle grandi organizzazioni. Beh, questo perché comunque è quasi inevitabile che la logica della pubblica amministrazione sia una logica di monopolio: non c'è concorrenza, non c'è confronto col mercato, non c'è capacità o anche necessità appunto di avere quella logica della competizione che può rendere più efficienti, più efficaci le procedure. Però ci può essere all'interno della pubblica amministrazione una verifica, una meritocrazia? Penso che sono almeno 35 anni, non i miei 25, che si parla di meritocrazia nella pubblica amministrazione, quindi certamente c'è un impulso a svilupparla. Attualmente la nuova riforma porta, riformando per esempio la dirigenza, introduce una competizione di fatto, perché mette per esempio tutti i dirigenti pubblici, tutti in uno stesso ruolo, in cui poi verranno scelti per gli incarichi sulla base delle loro competenze. Ci sarà una database di tutte le competenze dei dirigenti pubblici che saranno alla base della scelta della politica, se riusciamo a portarla avanti. Quindi uno, se non viene depotenziata in Parlamento; due, se poi diventeranno comportamenti reali; tre, se i sindacati non ci si metteranno di mezzo dicendo che questo non si può fare. Forse questo introdurrà una competizione, quindi anche la parola rischio vicino alla parola dirigente pubblico, che poi è l'unico modo di fare i dirigenti, perché non esiste dirigente senza rischio. Ecco, indubbiamente è più difficile nella pubblica amministrazione, lo si può capire, però in passato gli esempi non sono stati molto confortanti, sono stati aumenti di merito dati al 98% dei dipendenti, ma di questo parleremo tra poco, così come parleremo dei contenuti di questa riforma della pubblica amministrazione e di quello che si sta facendo a livello di cambiamenti anche usando le nuove tecnologie, magari anche i social network. Con Carlo Mochi Sismondi, presidente del forum della PA, restate con noi, a tra poco. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Incontri. Con le note della Rhapsody in Blue di George Gershwin riprendiamo l'incontro di questa sera. Bentornati a quanti ci ascoltano, ben arrivati a quanti sono arrivati adesso all'ascolto. Abbiamo parlato nella prima parte con Carlo Mochi Sismondi, presidente del forum della PA, abbiamo parlato della pubblica amministrazione, non abbiamo parlato di Gershwin. Perché gli piace Gershwin? Ma mi piace, io sento un grande ottimismo e una grande energia. Abbiamo bisogno sicuramente di ottimismo e di energia, ma anche una grande capacità di contaminazione. Lì c'era classico, c'era jazz, c'era blues, c'era, diciamo, musica leggera, e la capacità di fare una cosa bella mettendo tante culture insieme, che è un po' quello che deve fare secondo me l'amministrazione pubblica in questo momento. Salvare quanto di buono c'è nel passato, e riuscire a rimettere insieme con ottimismo e energia. Con questo ottimismo, voleva chiamarla rapsodia americana, Gershwin, sì, perché era il senso dell'ottimismo americano. Sì, della novità, appunto, della novità. C'era anche appena stata la grande crisi, perché siamo nel 24, quindi... Certo. Ecco, in questa prospettiva la riforma della pubblica amministrazione, si parla ancora di una nuova riforma, ce ne sono state altre in passato, che cosa prevede questa riforma, riforma Madia? Direi che la riforma ha tanti punti fondamentali. Se dovessi tirare fuori i principali, direi uno: una razionalizzazione delle amministrazioni stesse. Le amministrazioni sono nate per ragioni molto diverse, ciascun ente ha un suo perché quando è nato, molto spesso poi ha cercato soprattutto di sopravvivere e quindi di mantenere la sua essenza al di là della sua funzione. È necessario in questo momento, è cambiato tutto il mondo, cercare di capire anche se ci servono tutte queste amministrazioni, quali ci servono, magari ce ne servono anche di più in alcuni campi e di meno, sì, in altri, come possono essere organizzate. Quindi, primo punto, riorganizzare. Ecco, quindi è un punto di partenza questo, non c'è un disegno già definito, rigido. No, anche perché questa è una legge delega, la riforma, quindi vedremo che cosa uscirà fuori poi dai decreti delegati. Cioè, la legge delega è una legge di grandi principi, quindi ci dirà che le amministrazioni devono essere di meno, questo già lo dice, che devono spendere più per i servizi propri che non per i propri funzionamenti interni, che devono avere meno dirigenti, che devono quindi alcuni principi fondamentali li tira fuori, altri saranno poi specificati nel successivi decreti delegati. Ecco, c'è anche un problema di formazione dei burocrati, dei funzionari della pubblica amministrazione. Si dice che l'Italia è un po' in arretrato rispetto a paesi come la Francia, che hanno grandi scuole della pubblica amministrazione, è vero anche questo? Sì, diciamo che ormai la grande scuola francese, l'ENA, l'École Nationale d'Administration Publique, fa parte un po' di un passato. Ormai non, forse nessuno ha più bisogno di una classe di dirigenti pubblici, abbiamo bisogno più di dirigenti che sappiano fare i mediatori, i negoziatori, i project manager, che non dei grandi tecnici come probabilmente avevamo bisogno quando lo Stato faceva, era uno Stato produttore, uno Stato autorizzatore. Ormai lo Stato è soprattutto un facilitatore e deve essere una regia, per questo deve essere così, parlavamo prima di contaminazione parlando di Gershwin, deve contaminare così le culture, deve essere fuori dal palazzo, deve uscire, essere in piazza. Ecco, quindi un confronto anche con la realtà, con una realtà che è dinamica, di dinamismo fatto anche di rivoluzione tecnologica. Certo. La rivoluzione tecnologica è uno dei punti forti della riforma, perché può portare una grande capacità di efficienza, di efficacia, sì, di capacità di rispondere, di riduzione dei tempi su tanti fronti. Pensiamo anche ai tempi dei processi, che in fondo, sì, anche la giustizia è pubblica amministrazione in fondo. Lì dobbiamo partire da un dato di fatto. Dobbiamo dirci chiaramente che non siamo stati bravi finora. Qualsiasi di classifica, noi siamo sui 28 paesi dell'Unione Europea, ci oscilliamo tra il 26esimo e il 28esimo posto in quasi tutte le classifiche di digitalizzazione. Quindi c'è un grosso recupero da fare. Questo recupero può essere fatto solo se puntiamo su dei driver importanti. Il primo driver su cui punta la legge è proprio l'articolo 1 di questa legge delega di riforma, è il concetto di cittadinanza digitale, cioè parte dai diritti dei cittadini, che hanno il diritto di interloquire con l'amministrazione pubblica come interloquiscono con un albergo quando se lo prenotano, con la loro banca quando fanno home banking, con il treno quando si comprano i biglietti. Non si capisce perché poi devono tornare al medioevo al momento che si interfacciano con l'amministrazione pubblica. Quindi il diritto di cittadinanza digitale è già una rivoluzione copernicana, e mettere in centro il cittadino invece dell'amministrazione. Quando è che arriveremo ad avere una tessera unica che serve come banco, come carta d'identità, come patente, come tessera sanitaria, come tutto quanto? Sarebbe già tecnicamente possibile. Sì, assolutamente. Eppure sì, il Comune di Milano fa ancora le carte d'identità di carta. Il Comune di Milano siamo quasi 18 anni fa lanciò la prima sperimentazione della carta d'identità elettronica e la lanciò qui al Forum PA, quindi mi ricordo bene che portò Albertini, l'allora direttore generale Parisi, portarono questa prima carta e da allora abbiamo perso un sacco di occasioni e di opportunità. È già tecnicamente possibile, ma sarebbe ancora meglio se noi non avessimo bisogno neanche di una carta per il 90% delle cose che facciamo, in cui l'amministrazione dovrebbe solo lasciarci in pace, perché a tutti i dati ce l'ha già in pancia e dovremmo fare a meno di interloquire noi con lei, se non per quelle che sono delle esigenze in cui si richiede veramente la nostra intelligenza, non di fare portaborse dei nostri dati che l'amministrazione già ha. Il grande Einaudi diceva che molto spesso le regole fiscali sembrano fatte più che per cacciare soldi all'erario, per complicare la vita ai cittadini. Un po' questo sospetto, se si leggono alcune norme, cioè bisogna dire che l'affastellarsi delle norme deriva anche dal fatto che abbiamo una classe dirigente fatta tutta di giuristi. Cioè, se lei avesse una classe di commercianti che sono solo macellai, sarebbe difficile essere vegetariani. Noi abbiamo, certo, una classe di tutti giuristi, è probabile che si applichino a fare norme. Insomma. Forse se fossero giornalisti sarebbe peggio. Ma non so, questo lo lascio giudicare a lei. Senta, tra i tanti temi del Forum della Pubblica Amministrazione, in cui si parla di tutto, di salute, di scuola, di efficienza della pubblica amministrazione, c'è anche un capitolo di umanesimo manageriale. Vuol dire che anche i burocrati hanno un'anima? I burocrati non sono, diciamo che se non ci rivolgiamo all'anima dei burocrati sarà molto difficile che possiamo rivolgersi alla loro efficienza. Non solo hanno un'anima, ma la moderna gestione delle risorse umane deve entrare anche nell'amministrazione pubblica. Adesso ormai nessun capo del personale, nessuna grande azienda si rivolgerebbe ai propri dipendenti o ai propri dirigenti se non come esseri dotati di sensibilità, di gusti artistici, di capacità di interloquire tra di loro e di fare squadra. Allora, questo nella pubblica amministrazione, sotto un cappello di Todos Cavalleros, è stato dimenticato. Dobbiamo riportare nell'amministrazione la parte migliore dello sviluppo delle risorse umane, che è una scienza e che viene utilizzata in tutte le aziende del mondo. E anche a livello di linguaggio la pubblica amministrazione è rimasta ferma in molti casi al linguaggio, appunto, il burocratese, come si diceva. Quello è una partita persa, purtroppo, perché cominciamo, diciamo, già più di 10 anni fa si lanciò un manuale di stile per, sì, la pubblica amministrazione, fatto molto bene da linguisti, molto bene, che traducevano il burocratese in italiano e avevano messo delle regole per scrivere in italiano invece che il burocratese. Mano a mano, quando si molla la tensione, alla fine questo grande abbondanza di giuristi e in particolare di cultori di diritto amministrativo ha riportato nei loro linguaggi il linguaggio della pubblica amministrazione. Per stare molto attenti, perché la democrazia vuol dire che una norma deve essere capita da tutti. Se non è capita da tutti, non è una norma dello Stato. Ma c'è anche, appunto, il problema di considerare i cittadini non dei clienti o degli utenti, ma delle persone che sono un'interfaccia creativa e positiva verso la pubblica amministrazione. Io ho ricevuto alcuni mesi fa una lettera di un lettore in cui si diceva che nel suo comune era stato affisso un cartello in cui si scriveva: si avvisa l'utenza che gli uffici da lunedì saranno aperti. Perché si avvisa l'utenza? Basta scrivere: da lunedì gli uffici saranno aperti alla data ora. Sì. è una specie di categorizzazione che tende anche lì a ciascuno al posto suo. Mi raccomando, non mi toccate il mio posto. I cittadini sono i nostri, sono gli azionisti dell'amministrazione pubblica, sono i proprietari del bene comune, ne sono anche a volte, devono esserne anche i controllori. Qui tutto il tema della trasparenza, del social auditing, quindi di un auditing fatto dai cittadini stessi, dall'accountability. Non è un caso che la parola accountability non ha una traduzione in italiano, cioè forse ci sarà una ragione per cui render conto non è proprio, certo, esattamente essere accountable. Questo l'amministrazione ha dei passi enormi da fare. Ecco, guardando un po' in avanti, quali sono i passi più importanti, più importanti e più decisivi che possono essere fatti, che dovrebbero essere fatti secondo il suo osservatorio? Allora, a mio parere il tema principale è uscire da un paradigma bipolare che dice da una parte c'è l'amministrazione che fornisce servizi, dall'altra i cittadini e le imprese che ne usufruiscono, e se non gli va bene ogni 5 anni votano contro, invece a uno stato partner, a un'amministrazione che sia un'amministrazione di rete in cui si collabora, si va verso una vera clima di collaborazione civico. Questo è senz'altro già possibile, è già vero in alcuni casi, farlo diventare comportamento richiede uno sforzo molto maggiore che non fare una legge. Lo vedranno i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti? Ma io spero che, nonostante abbia 63 anni, un pezzettino di vederlo anche io, insomma, mi credo di averne un po' diritto, dopo averne fatti 25 anni di studio della PA, di avere un po' diritto di vedere questa PA nuova. Comunque qualche passo avanti è stato fatto. Sicuramente non dobbiamo, è stato fatto. Comunque non bisogna mollare, perché è uno sforzo che è una botta in salita, se noi non continuiamo lo sforzo tornerà giù. Ecco, quindi ecco, in questo cammino anche riconoscere i passi positivi che sono fatti diventa un elemento importante, anche per dire che comunque fare qualcosa ha dei risultati, e magari appunto li vedremo un po' nel tempo, però già ci sono adesso dei risultati, già la pubblica amministrazione non è così male come la si descrive, certo, spesso. Penso che se al forum noi cerchiamo di mettere in evidenza, anche al forum Pia di Maggio, anche di mettere in evidenza le migliori pratiche, perché siano un po' copiate, siano anche un po' da sollievo a chi sta cercando di fare del suo meglio, veda che non è solo. Allora, a chi interessa la pubblica amministrazione, l'appuntamento è il forum della PA 26-28 maggio, Palazzo dei Congressi a Roma. Per quanti invece hanno quotidiani rapporti con l'amministrazione, abbiate anche la capacità magari ogni tanto di protestare se le cose non funzionano. Assolutamente. Grazie a Carlo Bocchi Sismondi, presidente del forum della pubblica amministrazione, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Paolo Corleone in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato e commentato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora per quanto resta. Buona domenica.